Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di apertura. Bene, abbiamo ascoltato questo brano che è la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, e come tutti i giovedì dalle ore 20 alle 21:30. Ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Anche oggi diretta, quindi 5 dicembre 2024, e ora andiamo subito all'ascolto di un paio di brani, anche se magari dovrei elencarli, perché fanno parte comunque, o perlomeno l'album che andiamo ora così a presentare, ad ascoltare, è una compilation, che è appunto una compilation internazionale della narcopunk, che sembra edita in Francia, Io ero convinto invece in zona o Centro America o comunque in Spagna, tutto, quasi tutto scritto in spagnolo. Comunque, a parte il titolo che è Alla Mierda sus Fronteras, e poi vabbè, benvenudos immigrantes, e avanti così. Comunque sono all'incirca, ci sono 27 band all'interno di questa compilation, e noi, anzi, se volete sapere, come ho detto, internazionale, quasi tutti statunitensi, le band brasiliane, francesi, tedesche, spagnole e italiane nemmeno una, chi se ne frega. E comunque ora andiamo all'ascolto di questa band, Wasipungo, che è una band di New York, e poi ci sarà, credo che ascolteremo perlomeno due band. La seconda è Subverse, che sono di Berlino, e poi ci sarebbe una terza brasiliana, e avanti così. Comunque andiamo ora all'ascolto di questi, ripeto, Wasipungo di New York. Thank you. Ciao a tutte e a tutti. Allora, mentre stiamo adesso andando in onda qui a Zernis Magnetics, a Roma le compagne del coordinamento femminista e lesbica stanno portando avanti un'iniziativa importante. Si tratta di un incontro, vabbè, indifferita perché c'è a distanza, insomma, comunque con Silvia Federici su femminismo e smart city. E appunto la chiamata diceva: nostro lo spazio, nostro il tempo, giù le mani dalle nostre vite. E cercheremo, insomma, di dare così anche notizie sull'esito di questo incontro dibattito nei prossimi giorni. Silvia Federici ha scritto un intervento, un articolo sul genocidio che è in atto in Palestina e anche sul significato più così generale che ha, sul significato più generale di quello che sta succedendo appunto lì e non solo lì. E scriveva: il trattamento inumano e barbaro inflitto ai palestinesi è una minaccia per tutti noi, è un avvertimento di ciò che può essere fatto a noi, ricordandoci che viviamo in un sistema sociale che non si preoccupa delle vite umane e non esita a impegnarsi nella distruzione di massa delle persone per raggiungere i suoi scopi. Allora, prendiamo spunto da queste brevi righe così citate da Silvia Federici per stasera dedicheremo un po' di tempo alla lettura di alcuni contributi che sono comparsi sul blog Invicta Palestina, che frequentiamo abbastanza spesso e che proprio parlano del paradigma, di ciò che sta succedendo in Palestina come di una deriva, verso un mondo di equo apartheid. E questi contributi sono quattro e noi ne abbiamo tre per il momento, nel senso che sono stati pubblicati sul blog tre di quattro, ma vediamo, insomma, se riusciamo, quello che riusciamo a fare. Comunque è un'analisi abbastanza così approfondita, non parla solo di Palestina, parla in generale di paesi colonizzati e paesi in lotta per la decolonizzazione. E iniziamo così con la lettura della prima parte di questi contributi. La Palestina contro un mondo di eco-apartheid. Negli anni a venire l'eco-apartheid diventerà più evidente in tutto il mondo, poiché la violenza coloniale verrà utilizzata per mantenere e salvaguardare gli interessi e i profitti occidentali. Oggi stiamo assistendo a questo futuro a Gaza. Questo è un articolo del 17 novembre di Vihai Kolinievadi, spero di aver letto decentemente, e Asma Ashraf. Allora, scusate che non l'ho detto prima, praticamente questa serie di articoli erano stati copubblicati da Mondo Vice e dal Transnational Institute, che colloca la Palestina nel lungo percorso delle lotte anticoloniali, da Haiti al Vietnam, all'Algeria e al Sudafrica. Ci dicono gli autori: Gaza sta attualmente vivendo il più grande massacro di uomini, donne e bambini degli ultimi decenni e un tasso di distruzione che ha prodotto oltre 40 milioni di tonnellate di macerie, che richiederanno più di un decennio per essere rimosse. Le quasi 100.000 tonnellate di bombe sganciate sulla striscia di Gaza dall'ottobre del 2023 superano i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale su Londra, Dresda e Amburgo messi insieme. Gaza è il luogo di una delle più grandi carestie di massa progettate in questo secolo. In più di un anno non c'è stato un giorno in cui un bambino non sia stato smembrato dall'esercito israeliano, sostenuto dagli Stati Uniti e dall'Europa. Gaza ha visto i suoi ospedali, università, mercati e servizi essenziali fatti a pezzi, i suoi corsi d'acqua, l'aria e i terreni inquinati a livelli altamente tossici dai residui chimici dei bombardamenti a tappeto. La forza distruttiva con cui la striscia è stata bombardata è equivalente a diverse volte quella della bomba nucleare che gli Stati Uniti hanno sganciato su Hiroshima. Eppure le decine di migliaia di bambini palestinesi che muoiono a causa di mutilazioni, incenerimenti e infezioni derivanti da amputazioni non contano assolutamente nulla agli occhi dell'Occidente, in netto contrasto con il modo in cui reagisce quando un israeliano viene tenuto in ostaggio o un americano straricco è intrappolato in un sommergibile sottomarino durante un viaggio di piacere per vedere il Titanic. È assolutamente evidente che le vite dei palestinesi non contano per le potenze imperiali e i loro interessi. L'eliminazione completa di intere popolazioni ritenute subumane o non equivalenti ai corpi europei o euro-americani ci ricorda come gli orrori della tratta transatlantica degli schiavi e del genocidio coloniale delle popolazioni indigene da parte degli imperi occidentali non ci hanno mai abbandonati. È anche uno spaventoso riflesso delle priorità dei governanti del mondo mentre assistiamo all'erosione dei sistemi di supporto vitale del pianeta a causa del collasso ecologico. Il desiderio della classe dirigente di preservare una società liberal-democratica libera dal collasso ecologico si estende solo a un futuro riservato a loro stessi, una minoranza sempre più esigua. Nel frattempo, ciò a cui stiamo assistendo a Gaza è un segno di ciò che accadrà in un'epoca di crescente degrado ecologico, causato da un ordine mondiale capitalista che non è più adatto allo scopo, semmai lo è stato. E poi c'è una citazione del presidente della Colombia Gustavo Petro alla conferenza sul clima COP28 a Dubai. Gaza è lo specchio del nostro immediato futuro. Quello a cui stiamo assistendo in Palestina è l'intento mostruoso di eliminare un intero popolo e un intero ambiente per consolidare gli interessi imperiali guidati dagli Stati Uniti di fronte alla resistenza anticoloniale. Il futuro potrebbe vedere altri casi di annientamento del tessuto sociale ed ecologico dei luoghi, nel tentativo estremo di continuare a estrarre profitti e a rimuovere le popolazioni in eccesso. Questi atti di annientamento saranno invece inquadrati come situazioni in cui i vincitori civilizzati sconfiggono i cattivi barbari. In questo saggio, ci dicono gli autori, spieghiamo perché l'ecocidio e il genocidio combinati a Gaza sono espressione dell'eco-apartheid, un fenomeno di razzializzazione violenta che fa avanzare la frontiera coloniale dell'occupazione delle terre e del saccheggio delle risorse per convogliare la ricchezza verso pochi privilegiati a spese della grande maggioranza delle persone. All'interno dell'ordine razziale imperialista dell'eco-apartheid, la distruzione dei miserabili della terra, tra virgolette, delle popolazioni di carnagione scura, nere e indigene, e la cancellazione dei loro ambienti, delle loro culture e delle loro conoscenze, è considerata del tutto banale, un sistema che funziona come dovrebbe. È per questo motivo che genocidio ed ecocidio dovrebbero essere considerati due facce della stessa medaglia. Entrambi sono definiti dal tentativo di annientare un intero popolo e gli ambienti di vita di cui fa parte. Il cambiamento climatico è il risultato di secoli di occupazione coloniale e di sfruttamento di persone discriminate e delle loro terre come risorse. Ciò che distingue il genocidio dall'ecocidio è il ritmo dell'assassinio, veloce in alcuni luoghi, più lento in altri. Il processo di incanalare la ricchezza verso una manciata di persone comporta la creazione di zone di sacrificio geopolitiche e geofisiche di diversa gravità. Queste zone di sacrificio possono verificarsi sia nel sud globale sia nelle zone centrali dell'impero. Ad esempio, mentre la classe operaia americana in alcune zone della Carolina del Nord ha ricevuto non più di $750 in fondi di soccorso dopo la distruzione causata dall'uragano Helene, reso più violento dal cambiamento climatico, il governo degli Stati Uniti dal 7 ottobre 2023 ha dato oltre 22,7 miliardi di dollari in aiuti a Israele per bombardare Gaza e il Libano, pari a oltre $2,300 per cittadino israeliano. Stop! E continuiamo la lettura di questo articolo, La Palestina contro un mondo di eco-apartheid. Malgrado le conseguenze del nesso ecocidio-genocidio siano mortali per l'umanità, in questo saggio sosteniamo che l'eco-apartheid è necessario per mantenere il sistema imperialista capitalista per i decenni a venire e per assicurare un futuro colonizzatore suprematista bianco. In questo futuro, le finezze di un ordine liberale basato su regole saranno abbandonate. I miti del multilateralismo, del multiculturalismo, del diritto internazionale e dei diritti umani non saranno più convenienti per la classe dirigente di fronte alle schiaccianti contraddizioni economiche ed ecologiche. Come scrive Nesrin Malik, l'insondabile aggressione a Gaza, senza che i leader politici occidentali abbiano mosso un dito, indica che il nostro è ancora un mondo in cui il potere ha ragione. L'atteggiamento di guardare dall'altra parte delle potenze occidentali, che sostengono e incoraggiano attivamente il genocidio dei Gazawi, e l'orchestrato silenziamento delle voci di opposizione prefigurano l'imminente normalizzazione e manipolazione collettiva di una violenza inimmaginabile, mentre la catastrofe climatica continua a manifestarsi. La Palestina nell'ecologia mondiale. Il progetto sionista non è che una moderna iterazione della selvaggia storia coloniale dell'Occidente. A partire dalla dichiarazione britannica di Balfour e dalla violenta repressione della grande rivolta araba del 36-39, fino alla fornitura di armi pesanti da parte della Francia a metà del XX secolo, e ora agli incessanti aiuti militari degli Stati Uniti, Israele è sempre stato visto come il baluardo centrale del dominio imperialista nella regione. È considerato un avamposto della missione civilizzatrice dell'Europa tra gli arabi arretrati e i loro paesaggi aridi, nonché l'antidoto alle espressioni di autodeterminazione araba e ai movimenti arabi progressisti. Come l'impero britannico prima di lui, che ha legittimato e facilitato il progetto sionista, l'impero statunitense non è interessato alla democrazia, ai diritti umani o alla lotta all'antisemitismo. Questi, come la sostenibilità negoziabile, tra virgolette sostenibilità, sono solo narrazioni convenienti che servono a far leva sulle preoccupazioni sociali, allo scopo di rilanciare i progetti militari ed economici dell'impero statunitense. L'intento di questi progetti è quello di sottomettere territori e persone, spingerli in circuiti di accumulazione intorno al lavoro, alla terra e a nuove forme di debito. Di conseguenza, persone già ricche mantengono e migliorano i loro stili di vita ad alta intensità d'acqua e energia attraverso un'automazione ecomodernista che viene etichettata come resiliente al clima. In sostanza, gli stili di vita ecomodernisti non sono altro che il 10% dei più ricchi, che fa strage, letteralmente e metaforicamente, dei propri investimenti, che sarebbero appunto i più poveri. La ricerca coloniale delle risorse conferisce anche uno status di esaltazione al colonizzatore suprematista bianco, soprattutto quando sono gli arabi, i musulmani e i neri o persone di carnagione scura a basso reddito a soffrire per i capricci degli interessi occidentali. Ad Haiti, in Libano, nella Repubblica Democratica del Congo, a Cuba, in Sudan o all'interno degli Stati Uniti o di altri paesi occidentali. Israele è l'avamposto più importante dell'impero statunitense, non a causa dei conflitti interreligiosi o dell'influenza della lobby pro-sionista in Nord America e in Europa occidentale, ma per la posizione centrale del Medio Oriente nel sistema mondiale capitalista. Dopo la guerra del 1967 con l'Egitto di Nasser, in cui Israele si è dimostrato un partner affidabile dell'imperialismo statunitense, gli Stati Uniti hanno assunto la posizione di sponsor principale del regime sionista, fornendo armi e sostegno finanziario allo Stato dei coloni. Gli interessi degli Stati Uniti nella regione si concentrano sull'economia del petrolio fossile e sulla garanzia di un approvvigionamento stabile di petrolio nell'ambito dell'ordine globale egemonico statunitense. Ciò comporta un circolo vizioso di feedback positivo in cui i petrodollari generano altri petrodollari attraverso campagne militari, sfruttamento delle risorse, guerre ed ecocidio. Solo Israele, con la sua popolazione di coloni, in una posizione strategica i suoi confini vulnerabili, la sua società militarizzata e le sue forze repressive, può essere completamente affidabile per gli Stati Uniti e contribuire a consolidare l'ordine statunitense nella regione. Infatti, la sopravvivenza di Israele è fondamentale per la sopravvivenza dell'ordine capitalistico globale, che si basa sull'imperialismo statunitense e sull'egemonia dell'Europa occidentale. Una minaccia a Israele è quindi una minaccia al dominio imperiale statunitense. E arriviamo alla resistenza palestinese. La resistenza palestinese è la spina nel fianco dell'imperialismo statunitense. Ben prima dell'ottobre del 23, la strategia medio orientale del presidente uscente Joe Biden era stata molto chiara: normalizzare i legami tra Israele e Arabia Saudita, aprire nuovi mercati formali di investimento nella regione e stabilizzare ulteriormente le relazioni imperiali. La Palestina, il Libano e lo Yemen vengono puniti per il loro ruolo nel contrastare l'accumulazione ineguale di capitale e la fuga di valore dal Medio Oriente. La resistenza palestinese sta attualmente esprimendo la più chiara espressione del dissenso anticoloniale, di un movimento di liberazione nazionale che rifiuta di veder cancellata la propria umanità e le proprie popolazioni soppresse e sacrificate per il dominio imperiale. I bulldozer che devastano l'ecologia di Gaza non sono diversi da quelli che distruggono le foreste pluviali primarie per l'espansione dell'agrobusiness, scatenando la sesta estinzione di massa. Le tecnologie di intelligenza artificiale che perfezionano le armi utilizzate per uccidere i civili negli ospedali e nelle scuole di Gaza sono le stesse tecnologie di intelligenza artificiale che richiedono nuove fonti di energia come il carbone, il petrolio, il gas, le energie rinnovabili e pure l'energia nucleare. Questo appetito per l'energia dei signori delle big tech come OpenAI, Microsoft, Alphabet e Meta, tra gli altri, non solo annulla i guadagni ambientali derivanti dall'uso di energia rinnovabile, ma rafforza anche pratiche estrattive ecologicamente devastanti e discariche di rifiuti tossici su comunità di persone considerate indegne e subumane nel mondo. Stiamo assistendo a un circolo vizioso di violenza genocida ed ecocida. Coloro che dissentono nel nord saranno manipolati e repressi. Coloro che si organizzano per resistere nel sud saranno accolti con violenza e barbarie. Questi massacri degli ultimi secoli non sono noti a piè di pagina o casi di studio. Interi mondi di vita sono stati sterminati per la sopravvivenza dell'ordine coloniale. In breve, sono fondamentali per comprendere le crisi ecologiche che stiamo vivendo oggi. Ci mostrano che sebbene tutte le civiltà nel corso della storia abbiano avuto le loro guerre e conflitti, solo l'impero euroamericano, suprematista bianco, con le sue tecnologie di razzializzazione, ha perfezionato in modo così netto una infrastruttura sociale ed ecologica basata sul genocidio e sull'ecocidio. Anche se i massacri di Gaza e del Libano hanno scosso le coscienze addormentate delle masse, essi sono un riflesso non sorprendente e altamente coerente del carattere morale dell'Occidente dimostrato negli ultimi 500 anni. Come on.

volantino, chiamiamolo, una locandina, un volantino che è stato pubblicato insomma sui siti soliti, sul rovescio, che si intitola Libertà per Tarek, il caso di un altro compagno, rivoltoso, che ha partecipato alla manifestazione del 5 ottobre a Roma, dove appunto tutti i manifestanti erano stati circondati dalle forze dell'ordine. Addirittura, insomma, la manifestazione, come ricorderete, era stata vietata e poi hanno concesso, fra virgolette, la presenza statica, e poi piano piano, insomma, a forza di coraggio, diciamo un po', diciamo così, e piano piano si sono ritirate le forze dell'ordine. Sono quei pochi metri, quei pochi centimetri che però valgono tantissimo, ecco, perché sappiamo che i rapporti di forza sono molto diversi, ecco. Sono quelle situazioni in cui mi ricordo una frase di Jean Bonnot, della banda Bonnot, della banda insomma di rapinatori francesi prima metà del Novecento, che diceva pressappoco così, che non c'è niente di assolutamente strano dovrebbe essere una cosa banale il fatto di rivoltarsi, passare all'azione, insomma ai fatti, sono questi momenti insomma che fanno andare avanti in qualche maniera le cose per gli esseri umani, e non, insomma, non, tutto il resto dovrebbe fare impressione, ecco, tutto il resto, l'inerzia, gli stati inerti, insomma, dell'umore delle persone, ecco. Andiamo a leggere questo volantino, ripeto, si intitola Libertà per Tarek. Il 18 ottobre è stato arrestato Tarek Dridi. Le imputazioni per resistenza e violenza contestategli risalgono agli scontri avvenuti il 5 ottobre a Roma durante il corteo in solidarietà alla Palestina. In quella giornata migliaia di manifestanti hanno espresso la propria rabbia contro il genocidio in corso, infrangendo il divieto della questura a scendere in piazza, e Tarek, come tanti e tante altre, si è unito a loro. Gli sciacalli della stampa nazionale e gli organi investigativi si affrettano a dipingerlo come socialmente pericoloso e promettono sviluppi per le indagini ancora in corso nei riguardi di altri manifestanti. Non sappiamo che cosa abbia spinto Tarek quel 5 ottobre a buttarsi nella mischia, ad agire piuttosto che rimanere passivo di fronte a quello che succedeva, ma vogliamo ribadire un concetto semplice e chiaro: le individualità che si sono battute, che si battono e che si batteranno con coraggio contro la guerra, contro l'ipocrisia delle democrazie, contro lo sterminio di un popolo che ha osato alzare la testa davanti all'oppressione coloniale, non vanno lasciate sole di fronte alla repressione. Quante volte abbiamo visto piccoli, grandi gesti di perfetti sconosciuti cambiare il corso della storia. Mohamed Bouazizi, ad esempio, il fruttivendolo tunisino che si diede fuoco per protestare contro il sequestro da parte della polizia dei prodotti che aveva sul banco. Il suo gesto diede il via a una delle ondate insurrezionali più importanti della storia recente, che nei primi mesi del 2011 avrebbe infiammato le piazze delle cosiddette primavere arabe in tutto il Nord Africa e parte dell'Asia occidentale. Le masse arabe, come sappiamo, hanno pagato e continuano a pagare un prezzo altissimo per quei fatti, con torture, carcerazioni di massa, esecuzioni politiche. Questo processo di annichilimento delle istanze di rivolta in quel contesto è tuttora in corso, sia nei fronti interni di quei paesi, sia nelle guerre, ai migranti nel Mar Mediterraneo, e gioca un ruolo fondamentale nella repressione del movimento internazionale a favore della Palestina. Se il movimento internazionale in favore della resistenza ha dimostrato che il popolo palestinese non è solo, sottolineiamo che il genocidio è ancora in corso e che si caratterizza sempre più come eliminazione di quella massa eccedente che dalla Palestina sta raggiungendo sotto forma di guerra globale anche noi. Se i ribelli delle democrazie occidentali non riconoscono su di loro tutto il peso della responsabilità dei propri stati nelle politiche neocoloniali e genocidarie e non fraternizzano con i sottoproletari arabi, massa eccedente e migrante, probabilmente non avremo mai quel salto di qualità in grado di fermare il genocidio e la guerra. Se il gesto di resistenza di Tareq non rimarrà certamente un fatto isolato, la morte di Rami Elgham, ragazzo di origine egiziana di 19 anni in fuga da una banda di sbirri sabato notte, griderà vendetta ancora a lungo. Libertà per Tareq, libertà per il popolo palestinese e tutti i popoli arabi in rivolta, che l'intifada dialoghi di sì. Scusate, che l'intifada dilaghi in tutto il Mediterraneo e in tutto il mondo, anarchiche e anarchici, Roma. Ed era Volantino, data 3 dicembre scorso. Intanto stiamo ascoltando questa band, loro sono gli Stasis, è una band della zona di Bologna, e questo è il loro album, se non erro, d'esordio, uscito nel 2016. Ascoltiamo ancora gli Stasis. Sì, e dopo appunto la solidarietà a Tarek e a tutti e tutte quelli che si sono buttati nella mischia, non solo il 5 di ottobre a Roma. Continuiamo un po' con questo approfondimento che abbiamo approcciato così stasera, appunto la Palestina contro un mondo di eco-apartheid. Volevo leggere così ancora delle cose che sono state pubblicate nella seconda parte di questo approfondimento, che si intitola "Per la classe dirigente il cambiamento climatico significa solo più corpi da sacrificare". E allora ci dicono gli autori: che cosa c'è di nuovo nella nostra attuale congiuntura? Cosa caratterizza la nuova era dell'imperialismo statunitense in cui siamo entrati? La risposta è l'abbandono anche delle più modeste pretese di un ordine internazionale basato su regole. Una situazione in cui le regole valgono per tutti, tranne che per le potenze coloniali che hanno inflitto 500 anni di violenza al pianeta e ai suoi abitanti, e il cui modus operandi di frammentare l'umanità per estrarre manodopera e risorse si basa sull'idea di supremazia bianca. Implica tutto ciò la trasgressione selettiva delle leggi in cui tutti i diritti e le libertà civili, così come le regole fondamentali dell'ordine pubblico, possono essere smantellati in nome della salvaguardia del futuro dell'impero che contrasta il proprio declino. Le implicazioni di questo esercizio selettivo di immoralità sono assolutamente terrificanti in un'era in cui i sistemi di supporto della vita sulla Terra rischiano di sgretolarsi a causa del collasso ecologico. E qui sta la chiave per comprendere l'eco-apartheid, mentre assistiamo agli orrori che si stanno verificando a Gaza. È finita l'era delle rivendicazioni occidentali di umanità, sostenibilità e diritti civili, se mai sono stati validi. Vediamo invece il riconoscimento che questi diritti appartengono solo a pochi e che l'altro deve essere sacrificato per salvare questo ordine morente. L'estate del 2024 ha visto record di caldo a livello mondiale senza precedenti, superando i 50 gradi in ampie zone del sud del mondo, tra cui l'Egitto e il Messico. Inondazioni e incendi hanno devastato vaste porzioni del mondo, anche nel cuore dell'impero, nel sud degli Stati Uniti, danneggiando in modo sproporzionato le persone razzializzate, così come la classe lavoratrice bianca, persone la cui vita lavorativa è stata sfruttata con poche compensazioni o reti di sicurezza. Un mondo in cui grandi quantità di persone sono sfollate a causa del cambiamento climatico non è un'ipotesi lontana, ma è il nostro futuro immediato. Queste persone sfollate a causa del clima stanno già subendo leggi anti-immigrazione da parte di un'agenda di destra che si è rafforzata in tutto il mondo, dalla Turchia all'India, dalle Filippine agli Stati Uniti, al Regno Unito, all'Unione Europea e all'Italia. Queste leggi vengono attuate materialmente attraverso confini militarizzati progettati per uccidere, lasciando annegare, facendo morire di fame e poi usando migranti e rifugiati come capri espiatori per tutti i mali del capitalismo. La violenza di questo futuro immediato è già in atto ed è sempre più legittimata da discorsi che inquadrano il cambiamento climatico come una questione di sicurezza nazionale. Intanto che le nazioni occidentali continuano a fortificare i loro confini contro i migranti e i rifugiati climatici, contemporaneamente continuano a superare la loro percentuale di emissioni di carbonio. Nel frattempo, le nazioni povere del sud globale probabilmente non raggiungeranno mai il 100% del loro budget nazionale per le emissioni di carbonio. Eppure è sui loro corpi che si faranno sentire gli impatti più crudeli del cambiamento climatico e delle politiche ecologiche imposte dalla scarsità. Nessuna popolazione, ricca o povera, sceglie la condizione di rifugiato piuttosto che la sovranità e l'autonomia sulle proprie terre, sulla propria cultura e sul proprio modo di conoscere il mondo. La pressione a lasciare la propria casa a causa di guerre, espropriazioni forzate durante l'accaparramento di terre agricole o progetti minerari o altre crisi indotte dal clima è una condizione imposta a coloro che sono considerati dalle potenze coloniali come popolazioni eccedenti del mondo. Sono intrappolati in zone di sacrificio e sfruttati al massimo come manodopera di riserva dell'esercito. Ma quando le nazioni colonizzate formano un fronte di resistenza anticoloniale, quando tentano di svincolare le loro economie dal sistema mondiale imperialista, quando esprimono il loro diritto a resistere allo sfruttamento del loro lavoro e delle loro risorse naturali, l'Occidente è pronto a rispondere con la morte. E l'articolo poi continua con così una analisi dello schifo costituito dal diritto internazionale, che insomma poi andando sul blog di Invicta Palestina appunto potete leggervi per esteso, e poi per arrivare a questo alla risoluzione numero 3103 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1973. Questa era una risoluzione che prevedeva il diritto dei popoli di resistere all'occupazione e all'oppressione, ma questa risoluzione viene chiaramente negata e ignorata da tutte le potenze occidentali. E dopo 76 anni di occupazione, pulizia etnica e condizioni disumanizzanti e prolungate di violento apartheid, ci si aspetta che i palestinesi siano docili e sottomessi di fronte ai loro oppressori, analogamente all'aspettativa che coloro che vivono in ghetti degradati e sottoposti a pogrom religiosi o razziali o coloro che sono costretti a imbarcarsi su navi negriere o vivere in riserve, piantagioni o campi di concentramento, non debbano mai aspirare a liberarsi dalle catene della loro oppressione. Ci si aspetta che i palestinesi si arrendano alla missione civilizzatrice e accettino il loro destino di barbari animali umani. Nel maggio 2024 il procuratore della Corte Penale Internazionale ha presentato richiesta di mandato di arresto per i leader di Hamas e per i criminali di guerra israeliani Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. L'equivalenza insita nel paragonare la violenza coloniale israeliana con la resistenza palestinese a decenni di pulizia etnica, apartheid, bombardamenti ripetuti, accaparramento di terre, restrizioni idriche e omicidi impuniti, invoca un falso senso di neutralità della legge. In questo modo si maschera completamente l'entità della morte e del terrore continui che lo Stato sionista ha imposto ai palestinesi dal 1948 e anche prima. Eppure, anche questo tentativo di falsa neutralità, con tutti i suoi indicibili difetti, non ha portato all'arresto dei criminali di guerra israeliani. Il brutale massacro di decine di migliaia di persone nel corso di un anno, in quello che è il genocidio più trasmesso e filmato della storia dell'umanità, è visto semplicemente come il costo da sostenere per mantenere il regime terrorizzante dell'apartheid, di devastazione ecologica e genocidio, sponsorizzato dagli Stati Uniti e dall'Europa occidentale, rappresentato dallo Stato di Israele. La normalizzazione combinata del genocidio e la criminalizzazione dei manifestanti nelle università e nelle istituzioni di tutto il mondo, che chiedono il disinvestimento dalla macchina da guerra genocida, rende nullo qualsiasi effetto redentore dell'azione delle società occidentali su altre cause morali e sociali, siano esse relative ai diritti umani, alla giustizia, al femminismo, alla sostenibilità o all'uguaglianza. In altre parole, è impossibile sostenere la diversità, l'equità o l'inclusione quando si sta sviluppando una tecnologia di intelligenza artificiale che consente ai cecchini di mirare con maggiore precisione ai corpi dei bambini e quando si spediscono armi per uccidere 100 palestinesi al giorno. La falsa commistione tra la critica alla politica di uno Stato e la critica a un popolo o a una religione, amplificata dalla strumentalizzazione del dolore e del trauma storico del popolo ebraico a seguito dell'olocausto nell'Europa occidentale per consentire il genocidio in Palestina, sono grottesche tattiche di manipolazione che giustificano la pretesa assolutamente demoniaca che l'uccisione di decine di migliaia di palestinesi sia in qualche modo un'autodifesa. Nel frattempo, i suprematisti bianchi e fascisti di estrema destra in Europa e in Nord America, che perpetuano atti di antisemitismo, si danno la pazza gioia, avendo trovato nel progetto sionista il loro ambasciatore perfetto per proteggersi dalle accuse, scaricando la colpa sui palestinesi e sui sostenitori dei palestinesi. Se la mostruosità a cui stiamo assistendo a Gaza viene accettata e persino glorificata anche da coloro che si dichiarano progressisti, è molto improbabile che la violenza molto più lunga e lenta, sperimentata dalla maggioranza della popolazione globale, come risultato del collasso ecologico e del cambiamento climatico, possa suscitare qualsiasi tipo di simpatia da parte della classe dirigente. Le compagnie petrolifere del gas, le compagnie big tech, i produttori di armi, gli speculatori immobiliari possono trarre profitti a cascata da nuove concessioni e vendite nella striscia di Gaza e nei suoi dintorni. Sono proprio questi interessi a costituire la spina dorsale di un'economia. Scusate che ho perso il filo. Sono proprio questi interessi a costituire la spina dorsale di un'economia globale che sta distruggendo il pianeta per vendere il bottino al miglior offerente. Gaza ha pertanto ribadito l'eterna verità che il diritto internazionale e la moralità occidentale non potranno mai essere invocati per alleviare le nostre crisi politiche, socio-economiche e ecologiche. We'll be right back. L'era delle pretese occidentali alla democrazia, al multilateralismo e alla collaborazione internazionale è finita. Il loro completo fallimento nel fermare il massacro del popolo palestinese e nel fare collegamenti cruciali tra genocidio ed ecocidio l'hanno chiusa. Il mondo sta assistendo al tramonto del mito di un ordine internazionale basato sulle regole, cancellato dalla distruzione di Gaza da parte di Israele e dall'ostinazione del popolo palestinese nel rivendicare la propria umanità. Stiamo ascoltando intanto questa band statunitense, loro sono gli His Hero Is Gone, e da questo loro album 15 Counts of Arson. Bene, abbiamo ascoltato questa band statunitense dal loro questa band statunitense, ovvero gli Is Hero Is Gone, da questo loro album datato 1997 che si chiamava 15 Counts of Arson. Ora invece andiamo ad ascoltarci questa band che praticamente da alcuni singoli, perché noi abbiamo un'uscita discografica dove un'uscita discografica dove sono appunto stati registrati tutti i singoli di questa band. Loro sono le Bikini Kill. Maybe I Bene, sfumiamo questa band femminile, le Bikini Kills, band che era esistita negli anni 90, anzi dal 90 al 97. Noi abbiamo ascoltato alcuni singoli grazie all'uscita di una compilation che raccoglie appunto tutti i loro singoli. E ora ricordo che siamo sempre all'ascolto di Zardins Magnetics, che è un programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle ore 21:30, e viene condotto grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora anche ho detto tutto questo perché siamo al termine della trasmissione, mancano pochi minuti. Come sempre ricordo i nostri contatti: se volete scriverci attraverso la posta elettronica potete farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete ascoltarla nel blog in rete andando alla ricerca di zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, siamo al termine. Ricordo anche che potete ascoltarci in replica domani pomeriggio sulla web radio Radiazione dalle ore 17, e quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre dalle ore 20 alle 21:30, e ci salutiamo ascoltando questa band messicana, band che era esistita negli anni 80, anzi cioè dagli anni dall'87 in poi, e ora noi ci ascoltiamo la riproduzione di questa cassetta che fecero nell'87, che è stata ora pubblicata su vinile. Loro sono gli SS20 e questa cassetta si chiamava Cadaver Esquisito. Quindi ciao a tutti, al prossimo giovedì ci salutiamo ascoltando questi SS20. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.